piano. Di Enrico Ruggeri. Il calcio, lo sapete, è materia appannaggio più degli uomini che non delle donne. Poi però ogni tanto succedono delle cose per le quali anche le donne alzano la testa dal loro divano o magari entrano nella stanza nella quale tu stai guardando una partita. In genere succede ogni 4 anni ai mondiali, perché i mondiali sono qualcosa di particolare, nascono nuove realtà, naturalmente insomma ci sono il Brasile, l'Argentina, la Germania, l'Inghilterra, la Spagna, l'Italia, le grandi, però ogni anno c'è sempre qualche squadra, cioè ogni 4 anni, ogni volta che ci sono i mondiali c'è sempre qualche squadra che in qualche modo attira l'attenzione della gente, la cosiddetta sorpresa, e arriva non solo dal calcio sudamericano o magari addirittura da quello africano, ma arriva anche da piccole realtà europee. E poi il mondiale ti porta a considerare in un altro modo nuovi personaggi che arrivano alla ribalta, e ci sono dei personaggi particolari che hanno anche qualcosa di letterario dentro di loro. Ecco, quando arriva il personaggio del genere, soprattutto se è un tipo particolare che è un po' piacione ma anche letterario, allora anche le donne sollevano la testa dal divano, anche le donne che magari si annoiano a sentir parlare di calcio tutte le domeniche. Ecco, il nostro uomo oggi è un uomo di grande temperamento, è un uomo di grande classe, ma è un uomo che ha dentro di sé qualcosa di molto letterario, un uomo che nel suo paese, che è la Bulgaria, è considerato un eroe nazionale. Il suo nome è Hristo Stoichkov. 1966, siamo in piena guerra fredda, col mondo diviso in due, Stati Uniti e blocco sovietico, e blocco sovietico vuol dire una serie di paesi, i paesi del patto di Varsavia si diceva, no? Tra questi paesi c'è la Bulgaria che fa parte del blocco comunista e che quindi in virtù di questo vive in un periodo di grandissima povertà. Tutto fa capo al Partito Comunista, che controlla le forze armate, il partito che controlla la vita di tutti i giorni, con un popolo che si arrangia come può tra cibi razionati, stipendi da fame, insomma in quegli anni essere nel blocco comunista voleva dire come essere italiano durante la guerra, la tessera e tutte queste cose. Andiamo a Plovdiv, è un paese che noi conosciamo col nome di Filippopoli, e lì l'8 febbraio nasce il figlio di due semplici operai, eppure lo chiamano come il nono Cristo, quindi un nome impegnativo, e si capisce subito che lui è un ragazzino che sa il fatto suo, è uno che si fa rispettare, che fa a botte, che non subisce la prepotenza dei più grandi, è uno che si caccia nei guai. Insomma, forse per insegnargli un po' di disciplina si fa in modo che questo ragazzino venga arruolato nell'esercito. Sono cresciuto in un quartiere molto povero, la vita era difficile, il governo comunista non ti lasciava libertà di movimento, tutto veniva controllato. Nel mio quartiere però sono nati e cresciuti tanti calciatori e quindi fin da bambino mi sono appassionato al calcio. La carriera militare per lui coincide con le prime esperienze calcistiche nelle squadre giovanili, quelle controllate dall'esercito. A 19 anni lo chiama il CSKA di Sofia, è una squadra quasi mitica, insomma una squadra importante, la squadra più forte della Bulgaria, controllata direttamente dal Ministero della Guerra. E qui ordine e disciplina sono le parole più importanti, però per Stoichkov queste non sono parole facili da digerire, perché lui supera tutto con la sua passione per il calcio. A me piace vincere. Ho sempre avuto fame di vittoria e ho sempre lottato ogni giorno per arrivare a traguardi che altri non avevano raggiunto prima. E se per raggiungere queste vittorie bisognava combattere, beh, state tranquilli che mi sono sempre fatto trovare pronto. Dal 1984 al 1990 Stoichkov gioca nel campionato bulgaro. Lui è un militare, però lo sapete, in quel blocco comunista il partito vede nei successi sportivi un ottimo veicolo di propaganda. In realtà in tutte le dittature lo sport è stato veicolo di propaganda, e quindi ai suoi campioni non fa mancare nulla. Toichkov ha uno stipendio di tutto rispetto, guadagna 1500 lev al mese, circa 700 euro, però sono tanti se comparati ai 3000 lev che un operaio guadagna in un anno intero, quindi diciamo lui in due mesi guadagna lo stipendio di un anno di un operaio. Non è tantissimo rispetto ai guadagni di oggi, ma certo lì in Bulgaria si può stare bene. E lui è un ottimo giocatore. È uno di quelli che giocano a testa alta, che guarda attorno, lancia i compagni, è dotato però anche di un tiro fortissimo, è tecnico, è agile, eppure ha un fisico massiccio, 75 kg su 1,78 m. A vederlo in campo sembra sempre uno di quei giocatori che corrono poco, che aspettano nella loro zona, e poi però ti accorgi che non è così, perché la loro zona, nel caso di Stoichkov, è sempre dove c'è il pallone, cioè lui sa dove va il pallone e in qualche modo è sempre lì a chiamare il pallone. Poi è un guerriero, gesticola per farsi vedere dai compagni, si muove e si arrabbia molto con se stesso, con i suoi compagni di squadra, con l'avversario e anche con l'arbitro. Lui ha questa mentalità del militare che vuole vincere una battaglia, che non vuole fare prigionieri. E con il CSKA Stoichkov vince 3 campionati, 4 coppe nazionali, e il vero trionfo personale lo raggiunge alla fine del campionato 89-90. È capocannoniere con 38 gol, si aggiudica la scarpa d'oro, che è il premio che danno al miglior realizzatore europeo. E pensate che c'era stato un momento in questi 6 anni in cui aveva rischiato la radiazione dal mondo del calcio. Sì, perché lui è un uomo di temperamento, di carattere, non si tira indietro. E poi a Sofia c'è un derby che è molto sentito, è il derby tra il Levski Sofia e il CSKA Sofia. Il derby di Sofia viene chiamato il derby eterno di Bulgaria. Pensate che per anni questa partita è stata giocata in campo neutro per non alimentare scontri tra tifosi al di fuori dello stadio. Siamo al 18 giugno 1985, finale della Coppa di Bulgaria, e ci sono di fronte ancora loro, CSKA e Levski. Non solo due squadre, è una città che si divide in due. E anche in quel caso la partita è molto accesa e l'arbitro non riesce a tenerla, si fa sfuggire la partita di mano, come si suol dire. Insomma, a un certo punto la partita degenera, diventa una caccia all'uomo, si scatena una rissa, e vengono coinvolti anche i dirigenti delle due squadre, e si parla di radiazione a vita per alcuni giocatori. Le due squadre vengono espulse dal campionato, vengono sciolte, perché lì in Bulgaria non si scherza. Alla fine Stoichkov verrà squalificato per un anno, al suo rientro vincerà uno scudetto col CSKA, che per 4 anni si chiamerà CSKA Sredek. La svolta della carriera di Stoichkov, uno dei colpi d'ala, avviene il 4 aprile dell'89 e siamo in una semifinale di Coppa delle Coppe. Il CSKA a sorpresa è arrivato a quella semifinale e va a giocare a Barcellona la gara di andata contro la squadra allenata da Johan Cruyff. Siamo al 24esimo del primo tempo e sul Camp Nou scende il gelo. On the through ball's a splendid one from Kostadinov and Stoichkov with a chance here. Stoichkov takes it delightfully. Well, it's come out of the blue. But a goal for Sredets, perfectly executed. Perfectly. Kostadinov che apre a Stoichkov in contropiede e lui brucia tutti con uno scatto, si trova faccia a faccia con Zubizarreta, gli fa il tocco sotto, lo scavino, e la palla finisce in gol e i tifosi sono impietriti. Poi i veri valori vengono a galla, la partita finirà 4-2 per il Barcellona, Stoichkov segnerà anche l'altro gol, questa volta su rigore, Insomma, il CSKA verrà onorevolmente eliminato, ma questa partita è importante perché sulla panchina del Barcellona, lo abbiamo detto, c'è Johan Cruyff e lui rimane folgorato da questo talento. È un guerriero che lotta su ogni pallone, che però è anche un fantasista, è un caso anomalo nel calcio. E Cruyff chiede al Barcellona di comprare Stoichkov. È il momento di fare le valigie. Il calciatore più rappresentativo del calcio bulgaro lascia la sua terra per trasferirsi in Catalogna, alla corte di Cruyff, il profeta del calcio totale. L'inizio di un amore, di un colpo d'ala che durerà 5 anni. Il Barcellona della stagione 90-91 è una squadra che ha una gran voglia di vincere. Nei due campionati precedenti, con Cruyff in panchina, è arrivata a seconda e terza. È il momento per raccogliere i frutti del lavoro degli anni precedenti. Anche perché nel Barcellona ci sono giocatori di grande qualità. In porta c'è Zubizarreta, poi ci sono Busquets, Soler, Koeman, poi ci sono Guardiola e Baquero, e davanti Laudrup e Salinas, e poi arriva lui, Christo Stoichkov, che sembra portare alla squadra carattere, quella cattiveria, come si suol dire, che fino a quel momento era mancata alla squadra di Cruyff. Le prime partite sono difficili perché Stoichkov deve adattarsi a uno stile di gioco molto diverso da quello bulgaro. In campo sembra egoista, non passa la palla, rimane fuori dagli schemi. Poi c'è un'altra svolta, un altro colpo d'ala. Dicembre 1990, Supercoppa di Spagna, Barcellona contro gli eterni rivali, i Blancos, il Real Madrid. Ha combattuto con grande forza per tutta la partita. Poi arriva il colpo di scena. L'arbitro Aspitarte, un basco, al 40° del primo tempo espelle l'allenatore Cruyff. Stoichkov protesta e prende anche lui un cartellino rosso. Si avvicina all'arbitro e gli rifila un pestone al piede. 6 mesi di squalifica che poi verranno ridotti a 10 partite. I tifosi del Real Madrid contestano, agitano i fazzoletti bianchi, e i tifosi catalani invece inneggiano perché hanno trovato un nuovo condottiero. Nelle interviste a fine partita Stoichkov non ha parole gentili nei riguardi del Real Madrid. Insomma, nasce una profondissima e indissolubile inimicizia, un odio profondo verso la squadra madrilena. È un sentimento che lui esprimerà in diverse occasioni, e questo naturalmente per dei catalani è motivo di orgoglio, diventa un simbolo di ribellione per tutti i tifosi del Barça. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia del più grande calciatore bulgaro di tutti i tempi, quel caratteraccio di Christo Stoichkov, un combattente, uno che si faceva rispettare in campo con giocate di classe e anche a parole, anche fuori dal campo, perché è sempre stato super critico, per usare un eufemismo, nei confronti di avversari, di arbitri che spesso ne avevano stigmatizzato il comportamento. E poi c'è questo odio clamoroso di Stoichkov nei confronti dei suoi nemici di sempre, che erano i Blancos del Real Madrid, un odio che naturalmente gli è valso l'adorazione da parte dei tifosi del Barcellona. E siamo nel 1990. Stoichkov è entrato a far parte del gruppo assieme a Koeman e Laudrup, gli altri due stranieri del Barcellona, e in Bulgaria lui si era guadagnato il soprannome di Kamata, cioè pugnale, per come riusciva a colpire le difese avversarie. In Spagna lo chiamano l'Ayatollah per via di quel continuo gesticolare con le braccia alzate al cielo per chiamare la palla, ma anche per inveire contro gli arbitri, contro gli avversari. Il suo carattere duro, lo porta anche a essere un individualista, un accentratore. Cruyff ha bisogno però di un giocatore che entri meglio nei meccanismi della squadra, così gli mette vicino José Mari Baquero, divide con lui il centrocampo offensivo, è uno che ha già l'istinto dell'allenatore, i due diventano amici e sono complementari, e con i consigli di Baquero anche Stoichkov capisce che bisogna inserirsi meglio nella squadra. Intenta salire al contraattacco il Barcelona, però Goicoechea pareció que se le fue la pelota, la ha dejado seguir el liniero, atención a Stoico, viene desde atrás Villabuena con una exhalación, buen recorte de Stoico, va a buscar posición de disparo, gol. El tercero del Barcelona y el tercero de Gistro Stoico, ha disparado tres veces a portería y ha conseguido tres tantos el búlgaro Gistro Stoico. Muchas veces los goles se deben a los porteros. Gol, questo è uno dei quattro gol che Gistro Stoico rifila all'Atletico Bilbao nel marzo del 91, 6-0 per il Barcellona. Questo era il terzo, un gol con cui lui fa tutto da solo e batte il portiere. Alla fine del campionato il Barcellona vince il tanto sospirato scudetto, e quello non è che l'inizio. Abbiamo parlato di Koeman, di Laudrup, ma anche di Baquero, appunto il compagno di centrocampo di Stoichkov, e poi c'era anche Guardiola, e poi il portiere Zubizarreta, poi arriverà anche un brasiliano, un'altra testa calda, prima o poi ne dovremo parlare, si chiama Romario. La squadra è fortissima e in panchina c'è Johan Cruyff, che è un santone del calcio. Questo Barcellona sta dominando il campionato spagnolo. Stoichkov ormai è una pedina fondamentale per la squadra, non solo per i gol ma anche per dei passaggi millimetrici con cui serve i compagni. L'Ayatollah diventa il pistolero per i Blaugrana, è il momento di farsi rispettare, è il momento di andarsi a prendere la Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni 1992, prima fase eliminatoria, poi le otto migliori squadre vengono divise in due gironi e il Barcellona il suo girone lo vince, batte lo Sparta Praga, la Dinamo Kiev, il Benfica, va in finale, trova una nostra conoscenza, la Sampdoria di Vialli, di Mancini, di Boskov. Siamo al 20 maggio 1992 e siamo a Wembley. Kuman e Stoichkov poniéndose de acuerdo para si uno toca en corto para otro, va a tocar para Koeman. Pero se le han echado tres y gol. El gol de Koeman. Se ha movido la barrera. El gol de Koeman en el minuto 6. Koeman acaba de marcar para el Barcelona en el minuto 6. È il minuto 6, dice il commentatore spagnolo. La partita l'abbiamo già raccontata quando abbiamo narrato l'epopea di Boskov. La partita è arrivata ai tempi supplementari, verso la fine del secondo c'è una punizione, bolide di Koeman, Pagliuca non riesce a parare e questo bolide spegne i sogni dei blucerchiati allenati da Boskov. Il Barcellona conquista anche la Coppa dei Campioni e diventa la squadra di club più forte d'Europa. Ed è una liberazione per il popolo catalano, perché fino a quel momento la Coppa dei Campioni in Spagna voleva dire Real Madrid, l'odiato Real Madrid. E intanto il Barcellona vince il secondo scudetto consecutivo, poi ne vinceranno altri due, diventa il Dream Team. Stoichkov, dopo i tre scudetti in Bulgaria col CSKA, ne vince altri quattro in terra catalana. Il ciclo di vittorie del Barcellona si completa con tre supercoppe di Spagna, con una supercoppa europea, insomma è un bottino che infiamma i tifosi blaugrana. Il Barcellona è sempre stato il simbolo dell'orgoglio catalano, ancora oggi lo è. È uno spirito da combattente che si incarna perfettamente nella maglia numero 8 di Gistro Stoichkov. Barcellona ridotto a giocare come una squadra di provincia, veramente. E palo clamoroso ancora del Milan con Savicevic, sempre lui. Desai, Albertini, Desai, solo, gol, e sono quattro, il Milan travolge letteralmente il Barcellona di Cruyff. Eh sì, il Dream Team del Barcellona si ferma il 18 maggio del 94 a Atene e si ferma contro un altro Dream Team, il Milan. In questo caso segna Desai, ma il Milan vincerà 4-0 quella finale col Barcellona e conquista la Coppa dei Campioni, e il trauma è forte. in campionato l'anno dopo i rapporti tra Cruyff e Stoichkov cominciano a deteriorarsi, insomma il giocattolo si è un po' rotto, Stoichkov sembra più concentrato nell'inseguire degli altri traguardi, i traguardi diciamo del suo, della parte profonda del suo cuore, quelli legati al suo paese d'origine, cioè alla Bulgaria. E sì, perché nel gruppo 6 del girone la Bulgaria arriva seconda davanti alla Francia, dietro alla Svezia, e c'è una partita clamorosa al Parco dei Principi nei quali i bulgari staccano il biglietto per i mondiali del 94, sesta volta per un piccolo stato, non è male. Il falco e il gabbiano. I mondiali del 94 partono per la Bulgaria con un sorteggio non particolarmente favorevole: Nigeria, Argentina e Grecia nei gironi. La Grecia perde tutti e tre gli incontri, ricorderete Argentina-Grecia con il gol di Maradona che strabuzza gli occhi di fronte alla telecamera. Poi le altre tre squadre rimangono in equilibrio, si qualificano tutte e tre per gli ottavi, perché la Bulgaria perde con la Nigeria, poi batte Grecia e Argentina. La squadra bulgara è totalmente costruita attorno al suo campione, al suo Sid Campeador, attorno a Hristo Stoichkov, è lui che dirige il gioco, è un trascinatore, e succede spesso che dei giocatori anche magari di livello medio riescano a giocare meglio, a dare tutto quello che hanno, perché sono incitati da un vero leader, è uno che con la palla tra i piedi sa veramente il fatto suo. E adesso ci sono gli ottavi di finale, Bulgaria-Messico. Stoichkov porta in vantaggio la sua squadra battendo il coloratissimo, pittoresco portiere messicano Campos. Il Messico pareggia, perché il Messico era una bella squadra in quei mondiali. Si va ai calci di rigore, passa la Bulgaria, si arriva ai quarti di finale, è già risultato mai raggiunto prima, risultato storico. Ai quarti di finale c'è la Germania, campione del mondo, e la Bulgaria appare come una vittima sacrificale. Eppure Hristo Stoichkov dice ai giornalisti: rispettiamo la Germania ma non ci fanno paura, perché da questa partita noi abbiamo tutto da guadagnare e loro tutto da perdere. Parole che furono una profezia. E solo un leader può dire una cosa del genere se giochi nella Bulgaria e affronti la indistruttibile corazzata tedesca. E il livello della Bulgaria probabilmente è inferiore a quello della Germania, che tra l'altro è campione del mondo in carica, ma lui non vuole rinunciare al suo sogno. Il sogno è vincere quella partita, il colpo d'ala. E all'inizio del secondo tempo la Germania è in vantaggio al rigore di Mateus, poi c'è una punizione dal limite e Stoichkov piazza la palla perfetta. The Germans hoping they've got the wall right. Stoichkov. Oh, it's a goal! Hristo Stoichkov makes it 1-1. E quattro minuti dopo il miracolo, Lechkov segna, la Bulgaria passa il turno. Stoichkov commenta la vittoria a modo suo, dice semplicemente: oggi Dio è bulgaro. In semifinale c'è l'Italia di Roberto Baggio, è un'Italia che aveva faticato parecchio all'inizio, ma che adesso attorno a Baggio, con Sacchi che non si sa se era più contento per passare i turni o dispiaciuto perché non era lui l'eroe ma era Baggio, l'Italia ha trovato la chiave giusta. E infatti Roberto Baggio vince la sua partita e vince anche l'Italia, due gol di Baggio. Stoichkov in quella partita segnerà il suo sesto gol che gli permetterà di vincere la classifica cannonieri a pari merito con un russo, Salenko, che però gli ha segnato i suoi sei gol quasi tutti in una sola partita. Ma soprattutto Stoichkov ha portato la sua Bulgaria a un passo da una finale di Coppa del Mondo, un risultato che non è mai più stato raggiunto. E per Stoichkov il 1994 è anche l'anno del pallone d'oro, che gli viene assegnato anche grazie ai grandi risultati che ha conseguito durante un mondiale di calcio nel quale quasi da solo ha portato la sua squadra in semifinale. A Barcellona però le cose non vanno più bene come qualche anno prima, e Stoichkov entra in conflitto con Cruyff nel 95, lascia Barcellona, chiude definitivamente il suo periodo del Dream Team. In quegli anni in Italia si gioca il campionato che viene definito il campionato più bello del mondo, ci sono soldi, presidenti anche spregiudicati, che a volte pagheranno a caro prezzo, insomma, il loro avventurarsi nelle montagne del calciomercato. E in Italia c'è una di quelle squadre che risponde alle caratteristiche che ho appena detto. È una provinciale sorprendente, è il Parma. Appena conquistato la Coppa UEFA, c'è dietro una famiglia, la famiglia Tanzi. Insomma, lasciamo perdere tutto, andiamo avanti col Parma. Il Parma e Tanzi vogliono fare di tutto per tentare la corsa allo scudetto e si convince Stoichkov a venire a giocare in Italia. Lui arriva pieno di buoni propositi, però ha perso un po' di smalto, i risultati non sono esaltanti. Alla fine Stoichkov in Italia rimane solo uno di quei servizi della Jalapas Bank, lo inserisce nella rubrica fenomeni parastatali. Dopo un anno in Italia Stoichkov torna a Barcellona e vince ancora, vince una coppa, una supercoppa di Spagna, e poi inizia quel tipico girovagare del campione a fine carriera che vuole anche un po' monetizzare, va a giocare in Arabia Saudita, in Giappone e poi negli Stati Uniti, dove chiude la carriera nel 2003. Questo litigio che avrete ascoltato, credo senza capire nulla, a meno che non siate bulgari o non sappiate il bulgaro, è una delle ultime performance dettate dal carattere litigioso di Stoichkov quando diventa allenatore. Siamo nel 2013. Stoichkov, che sta allenando la squadra bulgara del Litez Loves, denuncia il presidente della federazione calcistica e lo accusa di aver rubato i soldi che servivano a migliorare le strutture sportive in Bulgaria, e lo accusa di avere abbandonato a se stesso il calcio bulgaro. E parliamo di un pezzo grosso: era l'ex portiere della nazionale Mikhailov, che aveva condiviso l'avventura ai mondiali americani con Stoichkov. Per queste frasi lui pagherà una multa ridicola, 2500 euro, quindi evidentemente se non è stato perseguito a dovere vuol dire che, insomma, queste frasi qualcosa di vero dovevano pur averlo. E quando Stoichkov lascia il campo da gioco e diventa allenatore, manifesta lo stesso carattere da guerriero, o se preferite lo stesso caratteraccio. Ancora oggi, quando lui viene messo a confronto con qualche giocatore del Real Madrid, non perde l'occasione per fare battute, per ironizzare, e non nasconde, anzi evidenzia la sua antipatia nei confronti dei Blancos, perché oltre che bulgaro a tutti gli effetti, Stoichkov è anche un po' catalano dentro. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure interagite con me sul sito di Radio 24 o sui miei social, sui nostri social, insomma lo sapete, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.